sveglio come ogni mattina, ha suonato vero come non mai. Un po' d'aria ma la stessa vetrina cieca sempre gli occhi miei. Un sospiro ancora poi andremo al mare, forza dai prendi la bici. Finalmente adesso si può parlare un po' di noi, del futuro che vuoi. C'è che c'è, che purtroppo c'è, sono un po' distratto. C'è che c'è, che avevamo stretto il nostro patto. C'è che c'è, che in fondo nella vita mi bastano gli occhi tuoi. C'è che c'è, che purtroppo sono un po' distratto. C'è che c'è, che avevamo stretto il nostro patto. C'è che c'è, che in fondo nella vita mi bastano gli occhi tuoi. Si spesso sa consigliare le soluzioni più adatte, perché negli occhi tuoi così profondi e sinceri riesco a vedere attraverso te. Negli occhi miei soltanto mille illusioni, molte ambizioni per cosa poi. A conti fatti stiamo molto al di sotto, prepara il caffè, è già arrivato il tramonto. C'è che c'è, che purtroppo sono un po' distratto. C'è che c'è, che abbiamo stretto il nostro patto. C'è che c'è, che in fondo nella vita mi bastano gli occhi tuoi. C'è che c'è, lo so che sono un po' distratto. C'è che c'è, che avevamo stretto il nostro patto. C'è che c'è, che in fondo nella vita mi bastano gli occhi tuoi. C'è, che purtroppo sono un po' distratto. C'è che c'è, che abbiamo stretto il nostro patto. C'è che c'è, che in fondo nella vita mi bastano gli occhi tuoi. C'è che c'è, che purtroppo sono un po' distratto. C'è che c'è, che abbiamo stretto il nostro patto. C'è che c'è, che in fondo nella vita mi bastano gli occhi tuoi. C'è che c'è, c'è che c'è. Take it, take it.